casa era una struttura dai bassi cornicioni, costruita con blocchi grezzi di arenaria rossa dell'isola, con un piccolo tetto puntuto dal quale facevano capolino due abbaini, sovrastati da due graziosi cappucci di legno e due grandi camini. Tutta la casa era coperta da una vegetazione lussureggiante di edera che trovava un facile appiglio sulle rozze pietre e che il freddo dell'autunno aveva mutata, da verde che era, in un meraviglioso color ruggine. Davanti alla casa c'era un giardino, sul quale si apriva il cancello cui menava il viottolo che le due ragazze stavano percorrendo. La casa lo fiancheggiava da un lato, mentre dagli altri tre era racchiuso da un vecchio argine di pietra, tanto coperto di muschi, di erbe e di felci, da sembrare la ripida sponda di un fiume. A destra e a sinistra, gli alti e scuri abeti stendevano su di esso i loro rami a mo' di palme, ma al di sotto c'era un praticello verde di trifoglio di secondo taglio che digradava fino all'azzurra ansa del fiume Grafton. Nessun'altra casa ora dura era in vista, null'altro se non colline e valli fitte di giovani abeti. Chissà che sorta di persona è la signorina Lewis, rifletté Diana mentre aprivano il cancello per entrare nel giardino. Dicono che sia molto stramba. Allora sarà interessante, aggiunse Anna con decisione. La gente stramba lo è sempre. Non te lo dicevo che saremmo arrivate a un palazzo incantato? Lo sapevo che gli elfi non avevano intessuto magie senza una ragione lungo quel viottolo. Ma la signorina Lavendar Lewis non si può paragonare a una principessa vittima di un incantesimo, rise Diana. È una vecchia zitella, ha 45 anni ed è tutta grigia, mi hanno detto. Oh, questo è solo a causa dell'incantesimo, asserì Anna sicura di quel che diceva. In cuor suo è ancora giovane e bella, e se sapessimo come sciogliere l'incantesimo tornerebbe bella e radiosa. Ma non sappiamo come fare. È sempre e solo il principe a saperlo, e il principe della signorina Lavendar non è ancora venuto. E forse gli è accaduta qualche fatale disgrazia, anche se la cosa sarebbe contro ogni legge delle fiabe. Temo che sia già venuto tempo fa, disse Diana, e che poi se ne sia tornato via. Dicono che una volta fosse fidanzata a Stephen Irving, il padre di Paul, quando erano ancora molto giovani, ma litigarono e si separarono. Sst, l'avvertì Anna, la porta è aperta. Le ragazze si fermarono nel portico sotto i vitici dell'edera e bussarono alla porta aperta. Si udì uno scalpiccio di passi all'interno e comparve uno strano piccolo personaggio, una ragazzina di circa 14 anni, con il viso lentigginoso, il naso all'insù, una bocca così larga che pareva quasi tesa da un orecchio all'altro e due lunghe trecce di capelli biondi legate da due enormi fiocchi di nastro azzurro. «La signorina Lewis è in casa?» chiese Diana. Sì, signora, entri, signora, da questa parte. E sieda, signora. Dirò alla signorina Lavendar che lei è qui, signora, e al piano di sopra. E con ciò la camerierina sgattaiolò via e le ragazze, rimaste sole, si guardarono attorno con occhi deliziati. L'interno di questa meravigliosa casetta era altrettanto interessante dell'esterno. La stanza aveva un soffitto basso e due finestre quadrate dalle piccole lastre di vetro, protette da tendine di mussolina tutte gale. I mobili erano vecchiotti, ma così ben tenuti che l'effetto era delizioso. Ma si deve ammettere senza mezzi termini che l'aspetto più interessante di essa, per due ragazze piene di salute che avevano appena fatto 6 chilometri a piedi nella frizzante aria autunnale, era una tavola preparata con stoviglie di porcellana azzurro pallido e carica di ghiottonerie, mentre piccole felci dalle sfumature dorate, sparse sulla tovaglia, le davano quella che Anna avrebbe definito un'aria di festa. Evidentemente la signorina Lavendar aspetta gente per il tè, mormorò. Ci sono 6 posti a tavola. Ma che buffa quella sua ragazzina! Sembrava una messaggera del paese delle fate. Immagino che avrebbe potuto lei stessa indicarci la strada, ma sono curiosa di vedere la signorina Lavendar. Ecco, sta venendo. E subito la signorina Lavendar si stagliò nel vano della porta. Le ragazze furono così sorprese che dimenticarono le regole della buona educazione e restarono lì a fissarla. Inconsciamente si erano aspettate di vedere il solito tipo di vecchia zitella, quello suggerito loro dall'esperienza, un tipo piuttosto spigoloso, con capelli grigi, ben allisciati e occhiali. Nulla si poteva immaginare di più dissimile dalla signorina Lavender. Era una personcina minuta, con i capelli candidi come neve, folti, ondulati, graziosamente acconciati in gradevoli ciuffi e ciocche. Al di sotto della capigliatura spuntava un volto quasi fanciullesco, con le guance rosee e le labbra dolci, con grandi e soavi occhi nocciola e con tanto di fossette. Indossava una gonna molto graziosa di mussolina color crema con rose di una sfumatura più pallida, disegnate sul tessuto. Una gonna che sarebbe sembrata ridicola e da giovinetta se portata dalla maggior parte delle donne della sua età, ma che le si adattava così a pennello che non lo si notava nemmeno. Carlotta IV ha detto che desideravate vedermi, disse con una voce che ben si attagliava al suo aspetto. Volevamo chiederle la via giusta per West Grafton, intervenne Diana. Siamo invitate per il tè dal signor Kimball, ma abbiamo preso il sentiero sbagliato, venendo attraverso i boschi, e siamo sbucate sulla strada principale, invece che su quella per West Grafton. Dobbiamo prendere a destra o a sinistra, uscendo dal suo cancello? A sinistra, rispose la signorina Lavendar con un'occhiata di esitazione al tavolo del tè. Poi esclamò, come risolvendosi con uno scatto improvviso, ma statemi a sentire. Non volete fermarvi a prendere il tè con me? Per favore, restate. I Kimball l'avranno già finito prima che voi siate arrivate. Carlotta IV ed io saremo così felici che voi restaste. Diana guardò Anna con espressione interrogativa. Restiamo volentieri, disse Anna, pronta dal momento che aveva deciso di saperne di più di questa straordinaria signorina Lavendar. Purché sia chiaro che non le arrechiamo disturbo, ma lei aspetta altri ospiti, vero? La signorina Lavendar guardò il tavolo del tè e arrossì. So che mi considererete una sciocca, disse. Sono una sciocca e me ne vergogno quando mi colgono sul fatto, ma mai quando questo resta tra me e me. In verità non aspetto nessuno, faccio solo finta. Vedete, sono così sola e invece amo la compagnia, voglio dire, la giusta compagnia. Ma sono in pochi a venire qui perché è così fuori mano. Anche Carlotta IV si sentiva sola, così ho fatto finta di avere ospiti per il tè. Ho preparato i dolci, ho decorato la tavola, ho adoperato i piatti di porcellana del matrimonio di mia madre e mi sono anche cambiata d'abito. Diana, in cuor suo, pensò che la signorina Lavendar era proprio stramba, come dicevano le male lingue. L'idea di una donna di 45 anni che giocava a prendere il tè con le amiche come fosse stata una bimba. Ma Anna, con gli occhi scintillanti, esclamò piena di felicità: Oh, anche lei dunque lavora di fantasia! Quell'anche rivelò alla signorina Lavendar uno spirito affine. Oh, sì, spesso, confessò, fattasi più ardita. Naturalmente è sciocco, vecchia come sono, ma a che serve essere una vecchia zitella indipendente se non si può essere sciocchi quando se ne ha voglia e quando non si fa male a nessuno? Una persona deve avere delle compensazioni. Non credo a volte che riuscirei a vivere se non facessi finta di fare qualcosa. Non mi lascio cogliere in fallo, tuttavia, e Carlotta IV non lo racconta a nessuno. Ma sono contenta oggi che questo sia accaduto, perché siete veramente venute, il tè è pronto per voi. Volete andare nella stanza degli ospiti, al piano di sopra, e togliervi il cappello? E la porta bianca in cima alle scale. Io devo correre in cucina a sorvegliare che Carlotta IV non faccia bollire il tè. Carlotta IV è una bravissima ragazza, ma son sicura che farà bollire il tè. La signorina Lavendar se ne andò saltellando in direzione della cucina, tutta assorta in pensieri gentili, e le ragazze salirono nella stanza degli ospiti, una stanza bianca come la porta, illuminata da un abbaino ricoperto d'edere che sembrava, come disse Anna, il luogo dove nascono i sogni felici. È proprio un'avventura, vero? Disse Diana. E com'è carina la signorina Lavendar, anche se è un tantino stramba, non ha affatto l'aria della vecchia zitella. Ha l'aria di un suono, di una nota musicale, rispose Anna. Quando discesero, la signorina Lavendar stava portando la teiera e dietro di lei, apparentemente molto soddisfatta, veniva Carlotta IV con un piatto di biscotti appena sfornati. Ora dovete dirmi come vi chiamate, fece la signorina Lavendar. Sono così felice che siate due fanciulle. Amo le giovinette. È così facile fingere d'essere io stessa una fanciulla quando sono con loro. Detesto. E qui ebbe una piccola smorfia. Detesto pensare che sono vecchia. Bene, e voi chi siete? Solo per curiosità, sapete? Diana Barry? E Anna Shirley? Posso far finta di conoscervi da un secolo e chiamarvi subito Anna e Diana? Certo, risposero insieme le due ragazze. Allora sediamoci comodamente e mangiamo tutto, disse la signorina Lavendar con aria felice. Carlotta, tu siediti lì in fondo e aiuta le nuove venute a servirsi. Oh, che bellezza avere fatto la pasta margherita e le frittelle. Certo, è stata una stupidaggine farle per degli ospiti immaginari. So che Carlotta Quarta era di questa opinione, vero Carlotta? Ma vedete che alla fin fine tutto si è risolto per il meglio? Non sarebbero andate sprecate, è ovvio, perché insieme con Carlotta Quarta le avrei mangiate con il tempo, ma la pasta margherita non è una cosa che con il tempo migliori. Fu un pasto gaio e memorabile, e quando fu finito uscirono tutti nel giardino già immerso nei bagliori del tramonto. Credo che questo sia uno dei posti più deliziosi che io conosca, disse Diana, guardandosi attorno ammirata. Perché si chiama la casa dell'eco? Chiese Anna. Carlotta, disse la signorina Lavendar, va in casa a prendere il piccolo corno di latta appeso sullo scaffale dell'orologio. Carlotta Quarta balzò su e ritornò con il corno. Soffiaci dentro, Carlotta, ordinò la signorina Lavendar. Carlotta, obbediente, soffiò, traendone uno squillo piuttosto rauco e stridulo. Vi fu un attimo di silenzio e poi dai boschi sul fiume venne una moltitudine di echi delicati, dolci, sfuggenti, argentei, come se tutti i corni del paese degli elfi soffiassero in onore del tramonto. Anna e Diana ruppero in esclamazioni di gioia. E adesso ridi, Carlotta, ridi forte. Carlotta, che se la signorina Lavendar le avesse ordinato di camminare a testa in giù avrebbe obbedito, si arrampicò sulla panca di pietra e rise forte. Subito gli echi rimbalzarono di ritorno, come se un esercito di folletti ne imitasse le risa nei boschi purpurei e lungo le punte bordate di pini. La gente di solito ammira moltissimo i miei echi, disse la signorina Lavendar, come se gli echi fossero una sua proprietà personale. E anch'io li amo. Ah, mi tengono buona compagnia, sempre lavorando con un po' di immaginazione. Nelle sere tranquille spesso Carlotta e io ci sediamo qua fuori e ci divertiamo a giocare con loro. Carlotta, riporta il corno al suo posto e appendilo, fa bene attenzione. Come mai la chiama Carlotta Quarta? Chiese Diana, che bruciava dalla curiosità a questo proposito. Oh, solo per evitare confusioni con le altre Carlotte dei miei pensieri, disse seria la signorina. Si rassomigliano tutte talmente che non si sa come tenerle separate. Tra l'altro non si chiama affatto Carlotta, si chiama, vediamo come, credo che si chiami Leonora. Sì, si chiama Leonora. Vedete, le cose stanno in questo modo. Quando la mamma morì 10 anni fa, non potevo vivere qui da sola, né potevo permettermi di pagare lo stipendio di una governante, sicché chiesi alla piccola Carlotta Bowman di venire a stare con me. Le offrivo vitto, alloggio e vestiario. Lei si chiamava veramente Carlotta, è stata Carlotta prima. Aveva appena 13 anni. Restò con me fino all'età di 16 anni e poi andò a Boston, dove poteva trovare un posto migliore. Allora venne ad abitare da me sua sorella. Si chiamava Giulietta. La signora Bowman aveva un debole per i nomi di fantasia, credo, ma assomigliava talmente a Carlotta che continuai a chiamarla così per tutto il tempo, e a lei non importava, sicché smisi di tentare di ricordare il suo vero nome. Fu Carlotta seconda, e quando se ne andò venne Evelina e fu Carlotta terza, e ora ho con me Carlotta quarta. Ora ha 14 anni, ma quando ne avrà 16 anche lei finirà con l'andare a Boston. E cosa farò allora? Davvero non lo so. Carlotta Quarta è l'ultima delle ragazze Bowman e la più brava. Le altre Carlotte mi facevano sempre capire che era sciocco da parte mia fingere così per gioco, ma Carlotta Quarta non lo fa mai, qualunque cosa realmente pensi. Non mi importa di quello che la gente pensa di me, purché non me lo lasci capire. Bene, disse Diana, guardando con rimpianto il sole che tramontava. Mi sa che dovremo andare, se vogliamo essere dai Kimball prima che faccia buio. Abbiamo passato un pomeriggio incantevole, signorina Lewis. Non tornerete a trovarmi? Supplicò la signorina Lavendar. Anna, dall'alto della sua statura, passò un braccio intorno alle spalle della donnina. Certo che torneremo, promise. Ora che l'abbiamo scoperta, vedrà che finiremo con l'abusare della sua ospitalità. Sì, ora dobbiamo andare, dobbiamo riuscire a staccarci da qui, come dice Paul Irving ogni volta che viene a Green Gables. Paul Irving? Nella voce della signorina Lavendar vi fu un lieve cambiamento. Chi è? Non credevo che ci fosse ad Avonlea qualcuno con questo nome. Anna era contrariata per la propria sbadataggine. Aveva dimenticato la vecchia storia d'amore della signorina Lavendar quando si era lasciata sfuggire il nome di Paul. È un mio piccolo alunno, spiegò con lentezza. È venuto l'anno scorso da Boston a vivere con la nonna, la signora Irving, della Strada a Mare. È il figlio di Stephen Irving? Chiese la signorina Lavendar chinandosi sulla siepe di confine che portava il suo nome in modo da nascondere il viso. Sì. Voglio dare a ciascuna di voi un mazzo di lavanda, disse poi la signorina allegramente, come se non avesse udito la risposta alla sua domanda. È carina, vero? A mamma piaceva molto. È stata lei a piantare queste siepi tanto tempo fa. Papà mi ha dato il nome che ho proprio perché amava il profumo della lavanda. La prima volta che conobbe la mamma fu quando si recò a casa loro a East Grafton in compagnia del fratello di lei. Se ne innamorò a prima vista. Lo misero a dormire nella stanza degli ospiti e le lenzuola erano profumate di lavanda e lui restò sveglio tutta la notte a pensare a lei. Dopo di allora amò sempre quel profumo. Ecco perché mi ha chiamato così. Non dimenticate di tornare presto, ragazze. Vi aspetteremo con ansia, Carlotta e io. Aprì il cancello sotto gli abeti per farle passare. Parve di colpo vecchia e stanca. Ogni bagliore, ogni radiosità erano svaniti dal suo viso. Il suo sorriso di congedo brillava di intramontabile giovinezza come sempre, ma quando le ragazze si volsero alla prima curva del viottolo, la videro seduta sulla vecchia panca di pietra sotto il pioppo argenteo in mezzo al giardino, con la testa appoggiata stancamente sulla mano. All'aria triste e sola, disse Diana piano. Dobbiamo venire a trovarla spesso. Mi sembra che i suoi genitori le abbiano dato l'unico nome giusto e appropriato che potevano darle, disse Anna. Se fossero stati così ciechi da chiamarla Elizabeth o Nellie o Muriel, avrebbero finito col chiamarla lo stesso Lavender, credo. È un nome che fa venire in mente solo dolcezze e grazie ormai sorpassate e vesti di seta. Il mio nome, per esempio, sa di pane e burro, di imbottite e di lavori domestici. Oh no, non direi proprio, ribatté Diana. Anna mi sembra un nome imponente, quasi da regina. Ma se per caso tu ti chiamassi Kerrena Pooch, mi piacerebbe lo stesso. Penso che la gente renda simpatici o antipatici i propri nomi a seconda di com'è. Ora non posso sopportare nomi come Gertie o Josie, ma prima che conoscessi le ragazze Pye, li consideravo dei nomi graziosi. Che idea incantevole, Diana, esclamò Anna entusiasta. Vivere in modo da rendere bello il tuo nome, anche se non era affatto bello all'inizio. Farlo penetrare nei pensieri delle persone, renderlo così amabile e piacevole che non pensino più ad esso da solo, ma alla persona che lo porta. Grazie, Diana.